Salva Danaio di Deborah Rosciani. Le obbligazioni argentine, il crack Parmalat, i mutui subprime, la crisi dell'euro. I giochi della finanza hanno incrinato le certezze dei risparmiatori, che devono decidere come investire in uno scenario economico e finanziario incerto. E voi cosa fate per i vostri soldi? Quando le persone hanno a che fare con il denaro, di solito reagiscono in due modi opposti, ma entrambi scorretti. Da una parte non ne vogliono sentire parlare, dall'altra si illudono che i consigli dell'impiegato allo sportello o le dritte di un amico facciano di loro degli investitori. Non funziona così. E la prima cosa da imparare è che la strada per non gettare via i risparmi e possibilmente farli fruttare non è un esercizio facile, ma neppure un mistero inafferrabile. L'alibi "non ci capisco niente" non regge e non esistono scorciatoie alla cura consapevole dei propri affari. Bisogna imparare a scegliersi le mosse giuste, capire se e come si può fare da sé, sapere che cosa la banca può offrirvi di buono e che cosa cerca di rifilarvi di meno buono o di cattivo. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Fra un poco vi svelerò da dove abbiamo tratto questa lettura, ma qual è il presupposto della trasmissione di oggi? Viviamo un momento difficile da molti punti di vista: crisi occupazionale, crisi di fiducia, crisi politica. Molti di noi fanno fatica ad immaginare come pianificare bene il proprio futuro finanziario. Come si sa, per molte famiglie italiane il tema risparmio oggi è davvero l'ultimo dei problemi, dato che mettere qualcosa da parte è diventata un'impresa difficile. E anzi, da qualche anno gli italiani hanno dovuto attingere alle proprie scorte per affrontare i problemi che stanno attanagliando molti di noi. Tra l'altro l'Istat proprio pochi giorni fa è stata impietosa con la fotografia scattata sulle nuove povertà nel nostro paese. Eppure gli italiani che risparmiano sono ancora molti, risparmiano anche a costo di consumare meno, e c'è pure chi con la crisi ha trovato il modo di concentrarsi di più sulle modalità di gestione del proprio risparmio, facendo diventare questa operazione una vera e propria priorità. E qualcuno ha addirittura scoperto che si può guadagnare con la crisi, o almeno si possono proteggere i risparmi nel miglior modo possibile, perché è un compito nel quale bisogna impegnarsi. Guadagnare con la crisi, 10 consigli per salvare i nostri risparmi, è il titolo di un libro che vi proponiamo come lettura estiva oggi, ed è proprio da questo libro che abbiamo tratto appunto la scheda iniziale. Con l'aria che tira forse è meglio, oltre a rilassarsi in spiaggia con un bel romanzo, anche rifugiarsi in qualche volume con argomenti utili. Lo hanno scritto due colleghi di due testate concorrenti che però noi oggi ospitiamo molto volentieri. Io do il benvenuto a Maria Teresa Cometto. Ciao Maria Teresa, benvenuta. Ciao Deborah, grazie per avermi invitato. Benvenuta doppiamente, perché è in Italia in questo tour, come dire, intanto personale, familiare, ma anche per presentare appunto questo libro che è stato scritto da poco con suo marito, con Glauco Maggi, che non c'è ancora in studio, ma è solo una questione temporanea perché fra un po' ci raggiungerà anche lui. Maria Teresa Cometto scrive per il Corriere della Sera, per Corriere Economia, ma già avevamo avuto modo di invitarla in passato. Maria Teresa lo ricorderà, perché l'ho buttata letteralmente giù dal letto, visto che con Glauco Maggi vive a New York dal 2000 e da quel periodo appunto è corrispondente per il Corriere appunto per le tematiche economiche. Ma in realtà, Maria Teresa, magari ricordiamolo, così raccontiamo anche ai nostri ascoltatori qual è stata l'origine di questo testo che presentiamo appunto in questa puntata. Anche dagli Stati Uniti osservate con grande attenzione le dinamiche della finanza italiana. Certo, Glauco, mio marito, tiene una rubrica settimanale sulla di stampa. Dialogo con i risparmiatori sulla stampa, Tutto Soldi, e anch'io continuo a seguire da vicino le vicende italiane, chiaramente. Tu citavi l'occasione precedente, era stata la pubblicazione di un altro libro con esatto. Asperlin e Kuffer, Figli e soldi, esatto, e anche lì il concetto importante era quello della educazione finanziaria, e cioè il fatto che non non si può accampare l'ignoranza e il tabù del denaro per non occuparsi dei fatti propri. Ci si appassiona a tanti altri temi, dal telefonino a... Che pure sono gran soldi, anche esatto, quello. Ecco. Esatto, e non è meno complicato scegliere il telefonino giusto rispetto a scegliere il conto in banca giusto, per esempio. Ma insomma, uno dei motivi anche della crisi finanziaria dal 2008 a oggi, l'abbiamo scritto nell'altro libro, l'abbiamo riscritto in questo, è l'ignoranza diffusa che per esempio ha fatto sì che i risparmiatori americani non leggessero attentamente le clausole dei mutui e quindi sottoscrivessero dei mutui che poi non hanno potuto permettersi e che hanno fatto scoppiare la bolla immobiliare in America. E così oggi quando si va in banca a parlare del proprio conto corrente bisogna essere consapevoli che non ci si può fidare ciecamente di chi sta dall'altra parte, perché fa il suo interesse giustamente e noi dobbiamo fare il nostro interesse, e per poter fare il nostro interesse bisogna documentarsi un minimo. Non è una cosa da scienza nucleare, tutti quanti lo possono fare perché tutti quanti facciamo il conto della spesa. Esattamente, anche perché ad ognuno di noi arriva la bolletta della luce, quella del gas, paghiamo il mutuo, gestiamo il conto corrente, facciamo tante operazioni economiche nel corso della giornata, per cui questi temi in realtà sono molto più vicini a noi di quanto non pensiamo. Nel tuo libro, nel vostro libro anzi, ci sono tante nozioni, tante informazioni interessanti, ma soprattutto voi avete voluto fare un'operazione molto, molto concreta nella quale anche i nostri ascoltatori possono identificarsi questa mattina. Avete individuato 10 profili di investitore tipo, appunto, magari li raccontiamo, Maria Teresa, così invitiamo i nostri ascoltatori a telefonarci per appunto raccontarci se si identificano anche appunto nei profili che avete individuato, adesso senza entrare molto nel dettaglio. Ma per esempio io sono una single, un po' più di 40 anni, un guadagno che adesso magari non lo dico perché non è il caso di andare così a fondo anche nelle mie dinamiche personali, appunto chissà se ci sono lì. Ma penso assolutamente di sì, singole famiglie 30-50 anni con un lavoro, direi che noi abbiamo consigliato un tipo di risparmio molto bilanciato, 40% in reddito fisso in euro, 40% in investimento azionario attraverso gli ETF, qualcosa anche in obbligazioni aziendali che rendono un po' di più del reddito fisso dello Stato, e poi soprattutto pensare alla previdenza, che è un argomento ancora molto poco capito in Italia. Quella integrativa, certo, perché l'assegno pubblico in Italia lo conosciamo molto bene, nel senso che siamo molto affezionati a quel concetto là, è per questo che fa molta fatica a prendere piede invece il tema della previdenza complementare. Certo, e quindi ancora moltissimi risparmiatori italiani, pur avendo la possibilità di sfruttare al massimo le detrazioni fiscali che danno i fondi pensione integrativi, non le sfruttano e non sanno nemmeno che spesso aderendo al fondo pensione si ha immediatamente il raddoppio del proprio investimento, perché l'azienda versa altrettanto nel tuo risparmio previdenziale, quindi perdono una doppia occasione di mettere da parte un po' di soldini per il lungo termine. Non sarà tanto, ma è meglio che niente. E infatti, allora, tra l'altro non ho ancora così invitato i nostri ascoltatori a chiamarci, ma lo potete fare come fate ogni giorno all'800 24 00 24. Vi pongo proprio la domanda che si fa Maria Teresa Cometto, che si fa insieme a Glauco Maggi appunto nel libro: cosa fate per i vostri soldi? Quali sono i concetti economici che davvero ritenete inafferrabili, appunto per quale motivo considerate l'economia una disciplina così distante, invece non capite che le abitudini economiche sono proprio quelle nelle quali ci confrontiamo, con le quali ci confrontiamo tutti i giorni. La scelta migliore è il materasso, e questa è il primo SMS che ci arriva oggi, Maria Teresa, al 349-238-6666. Effettivamente negli ultimi anni questa crisi ci ha portato sicuramente ad essere più attenti al nostro risparmio e a conservarlo all'insegna della massima prudenza. Sì, ma prima ancora di quello, però, ecco, il materasso non è utilizzabile per ricevere lo stipendio o la pensione e per pagare le bollette, ci vuole per forza un conto corrente oramai. Ebbene, nel primo capitolo noi spieghiamo che facendo un minimo di ricerca online, si può fare sul sito Patti Chiari, e confrontando le diverse condizioni dei conti correnti si possono risparmiare più di 100 euro all'anno, perché ci sono differenze di costo di gestione del conto corrente appunto di oltre 100 euro all'anno. Quindi la prima regola è cercare di tagliare le spese inutili, di risparmiare su quello che è così proprio lo strumento di base poi per qualsiasi altro tipo di investimento, cioè il conto corrente. Esatto, tra l'altro è un'indicazione molto corretta, perché gli italiani in realtà sono molto poco mobili, si affezionano allo sportello che è chiaramente attaccato alla propria casa e fanno molta difficoltà appunto a cambiare effettivamente abitudini da questo punto di vista. In realtà oggi è diventato molto più semplice di quello che non crediamo. È chiaro che poi possiamo come dire, prendere lo spunto di cambiare la nostra banca, invitando così anche il nostro direttore di banca magari ad offrirci qualcosa di meglio, no? Possiamo certo. utilizzare anche questa molta più ampia possibilità di spostarsi appunto rispetto al passato, proprio per negoziare magari di più, ottenere le cose. Se proprio non ci vogliamo spostare, insomma, magari diciamolo al direttore che vogliamo farlo e troviamo la condizione migliore lì nel nostro sportello di fiducia. Certo. Non trovi che sia appunto ancora un po' troppo statico il risparmiatore italiano? Assolutamente sì, abitudinario. E un'altra cosa direi che ci caratterizza un po' è passare dal appunto voler mettere i soldi soltanto sotto il materasso a cadere invece nelle trappole più bizzarre. Nell'ultimo capitolo parliamo delle truffe online, che sono sempre più frequenti, e ci sono tantissimi risparmiatori che cadono in queste offerte, per cui investendo anche micro cifre, 10, 50, 100 euro, vengono promessi favolosi guadagni, e i truffatori sono molto astuti, perché sanno benissimo che chi ha buttato via soltanto qualche decina di euro poi non sta lì a fare denunce, a essere preso in giro magari da amici e parenti perché ha fatto queste cose. Quindi passiamo insomma dal materasso ultraprotetto all'avventura finanziaria senza appunto rifletterci più di tanto. In molti capitoli voi intervistate anche molti professionisti del risparmio, molti esperti delle tematiche finanziarie, ma ti chiedo prima magari di raccontarci quali sono appunto coloro che avete intervistato. Gli italiani scelgono uno strumento di investimento, secondo anche appunto il monitoraggio che avete potuto fare, scegliendo quale aspetto, privilegiando quale aspetto, la sicurezza, il rendimento, i costi appunto dei prodotti di investimento, che tipo di analisi siete riusciti a fare? Ma il problema è che c'è molta poca scelta consapevole, come dicevamo prima, cioè gli italiani si fidano moltissimo ancora dello sportello bancario soprattutto, e riportiamo delle cifre abbastanza allarmanti nel libro, e cioè il fatto che per esempio l'anno scorso le banche sono riuscite a piazzare 1.000 miliardi di euro di titoli propri, che sono obbligazioni bancarie, promettendo rendimenti migliori di quelli che possono dare i titoli di Stato o qualsiasi altra alternativa. Queste obbligazioni sono degli strumenti complicatissimi, sono strumenti creati con derivati finanziari che nemmeno lo sportellista riesce a spiegare esattamente al cliente, e vengono venduti sulla fiducia, e purtroppo i clienti non si rendono conto di quanto stanno pagando di commissioni, dei rischi che corrono, del fatto che i rendimenti poi sono tutt'altro che garantiti o concorrenziali con un BTP normale o con un ETF o altri strumenti. Ecco, oggi gran parte del risparmio degli italiani va in queste scatole nere, difficilmente decifrabili, e con un esito sicuramente non dalla parte del risparmiatore. Vedo che si è prenotato all'800 24 00 24 un ascoltatore, adesso non so se Marco Lombardo, che è l'assistente del programma, appunto riesce a recuperarlo, però intanto ti anticipo il tenore della sua domanda, Maria Teresa, perché naturalmente questa persona è un promotore finanziario e credo che abbia percepito male il contenuto del libro, nel senso che ritiene che sia un libro per l'investimento fai da te. Non mi pare che sia così. Non ci sono suggerimenti per appunto, come dire, invitare il risparmiatore a gestire da solo i suoi risparmi. Avete anche un capitolo dedicato alla consulenza. Alla consulenza, esatto. Come scegliere il consulente giusto. Appunto, infatti, perché anche questa è un'altra bella sfida. Non è detto che quella sia la soluzione a tutti i nostri mali, no? Se gestiamo male il nostro risparmio, non è detto che affidandosi al consulente vada tutto meglio. Come si fa a sceglierlo bene, appunto, Maria Teresa? Che tipo di suggerimenti date? Beh, è molto semplice. Bisogna chiedergli come è pagato. mercato, cioè che tipo di incentivo riceve dalla sua azienda per vendere un certo prodotto. Tutti facciamo i nostri interessi, come ricordavi tu prima, quindi il consulente finanziario ovviamente il suo interesse è quello di guadagnare il più possibile sul suo mestiere, e quindi può ricevere dalla sua azienda o un pagamento in percentuale sul patrimonio che gestisce per il cliente, oppure un pagamento in percentuale sui prodotti che vende. Ci possono essere campagne per promuovere in una fase certi prodotti piuttosto che altri. Il mal di budget, come lo chiama Plus24 del Sole 24 Ore. Esatto, per cui abbiamo avuto appunto le stagioni in cui si vendevano certi fondi comuni soltanto, certe polizze e così, e questo chiaramente quando ci sono queste campagne non vengono fatte nell'interesse del singolo risparmiatore, ma vengono fatte nell'interesse dei profitti dell'azienda che li vende. Il che va tutto bene, basta saperlo e basta sapere se poi quel prodotto magari è anche consigliabile per la propria situazione finanziaria. Quindi la prima cosa da fare è chiedere come sei pagato su questo prodotto. Paolo da Belluno, buongiorno, visto che l'abbiamo tirata in ballo a forza, e allora la curiosità che ci facciamo è questa appunto: ma i suoi clienti le fanno questa domanda per capire se è un buon consulente o meno? Sì, pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Guarda, io la prima cosa che dico ai miei clienti, che in ogni caso, siccome è il mio lavoro, per cui il mio lavoro deve essere remunerato, è che sono sempre in conflitto di interessi, perché ogni volta che io sottopongo una trattativa a un mio cliente, devo trovare il giusto equilibrio tra quello che è il giusto guadagno del cliente, quello mio, e quello dell'azienda che, per cui lavoro. Ma questa è in qualsiasi lavoro che si fa c'è un conflitto di interessi, se no non sarebbe più un'attività, sarebbe un far beneficenza, ma guardi, nessuno contesta assolutamente. La anche cosa perché... secondo me è fondamentale, come dicevo, non l'avete accennato, che in qualsiasi elettrodomestico che compriamo c'è scritto, c'è l'avvertenza che l'installazione deve essere fatta da personale qualificato, e questa è della... diciamo l'atteggiamento anche verso i prodotti finanziari, cioè bisogna spingere più sulla preparazione delle persone che propongono, che propongono i servizi finanziari. Questo è, diciamo, io sono promotore finanziario da 16 anni, ma prima ho lavorato in banca, e in banca purtroppo non avviene perché si è messi allo sbaraglio, mentre il promotore finanziario serio ha un'attività di preparazione, certo, lunga e di giorno in giorno si deve formare. Sì, Paolo, abbiamo capito. E più c'è il discorso che il cliente è il patrimonio del promotore finanziario, quindi la sua soddisfazione viene al primo posto. Certo, Paolo, la ringrazio per la sua testimonianza e la avvaloro ulteriormente raccontandovi, per chi si fosse perso quella puntata, quello che ci ha raccontato un promotore finanziario che è venuto ad aiutarci appunto per affrontare in una puntata di Salvadanaio un argomento che adesso neanche mi ricordo. Però siccome questo promotore consigliava, oltre ai prodotti della propria banca, anche titoli di Stato, ha fatto investire appunto in certi momenti, appunto quando effettivamente i rendimenti erano anche interessanti, ha fatto un pochino acquisire fette di titoli di Stato appunto italiani ai suoi clienti, e molti sono rimasti scandalizzati perché dico: ma che promotore finanziario è che non fa l'interesse della sua banca? E lui ci ha detto: il mio stipendio me lo costruisco attraverso il rapporto con i miei clienti, naturalmente, per cui devo fare il loro interesse al 100%, pertanto se loro hanno l'esigenza di comprarsi un BTP Italia, per quale motivo io non devo aiutarli? Questo migliora, Maria Teresa, anche il rapporto di fiducia, che è fondamentale. Certo, noi nel capitolo su come scegliere il consulente giusto citiamo anche questa nuova figura professionale che in Italia è limitatissima, ce ne sono veramente pochissime, cioè il consulente indipendente, e che però all'estero, in altre situazioni, in Gran Bretagna per esempio, anche in America, è molto più diffusa. Il consulente indipendente è quello che consiglia come professionista, staccato da qualsiasi azienda di promotori o banca, consiglia i prodotti solo sulla base di quello che è disponibile sul mercato, e quindi può consigliare BTP, ETF, qualsiasi altra forma di investimento, e si fa pagare una parcella, certo, come se fosse un avvocato, come se fosse un commercialista, come se fosse un dottore. E lì quindi chiaramente alla fine dell'anno il cliente valuterà, sulla base di quello che ha speso nella parcella, sulla base di quello che ha guadagnato, se gli è convenuto o meno. Ci siamo salvate proprio in corner, come si dice Maria Teresa, perché un ascoltatore aveva già scritto: e consulenti indipendenti dove li mettiamo? Per cui ecco qua che abbiamo soddisfatto anche loro. Allora, ci dobbiamo fermare per la nostra prima pausa. 800 24 00 24 numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci. Naturalmente Antonio ci scrive: sapete cosa ci faccio con i miei soldi? Io li spendo tutti. Ha senso investire per guadagnare anche quando le economie dell'Italia, dell'Europa, dell'America vanno malissimo, male o malino? E ha senso farlo mentre nessuno assume o quasi? E con il debito pubblico dei paesi industriali che è oltre la soglia della produzione nazionale? Sì, ha senso. Il mondo ne ha viste di crisi e di tutti i colori. Ma se siamo tutti più ricchi di quanto lo fossero i nostri nonni e bisnonni della prima metà del secolo scorso, o i nostri genitori dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è perché c'è stata crescita, tirate le somme, anche nel secolo delle tragedie storiche e delle depressioni economiche. Si può guadagnare investendo, dunque, senza illudersi di moltiplicare il conto in banca da un anno all'altro e senza perdere denaro in avventure. Con disciplina, cioè dedicando alla pianificazione del bilancio finanziario familiare l'attenzione che merita, sotto forma di educazione e di ricerca delle informazioni utili. Girarci attorno è una perdita di tempo. Purtroppo non c'è alternativa alla strada della responsabilità. Bisogna imparare a scegliere le mosse da fare. E chi si rende conto di non essere in grado di fare le scelte da solo, sappia che il mercato del risparmio è popolato anche da svariati consiglieri. E il bancario dello sportello, il promotore finanziario e il consulente indipendente non sono tutti uguali. E questo era un altro brano tratto dal libro Guadagnare con la crisi, 10 consigli per salvare i nostri risparmi, edito da Sperling & Kupfer. Gli autori: Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi, due colleghi giornalisti che vivono da qualche anno a New York, ma naturalmente hanno conservato la buona abitudine di osservare con grande attenzione quello che succede in Italia. Maria Teresa Cometto scrive per il Corriere della Sera, per Corriere Economia, Glauco Maggi per La Stampa, dove cura la posta dei lettori. Glauco, lo stiamo aspettando da un momento all'altro, speriamo che arrivi, per una piccola disavventura non è riuscita ancora a raggiungerci, è però con noi Maria Teresa Cometto. Volevo ribadirlo, Maria Teresa, per così magari chiarire un po' qualche equivoco nel quale sta cadendo qualche ascoltatore. Questo libro non è una serie, come dire, di suggerimenti per investire, ma è per migliorare la propria preparazione in campo finanziario, possiamo dire così o mi sbaglio? Sicuramente è per imparare l'ABC di tutte le offerte disponibili per gestire i propri risparmi, però ci sono anche dei consigli pratici. Uh-huh. Per esempio, citavo prima le obbligazioni oscure che vendono a man bassa le banche oggi e sono il prodotto più spinto allo sportello, e promettono un rendimento garantito alla fine di 5-10 anni. Ebbene, questo rendimento non è così garantito come viene venduto, e si possono fabbricare in casa in modo abbastanza semplice, per esempio, prodotti analoghi a costi inferiori e con possibilità di guadagno migliori, per esempio prendendo un'obbligazione zero coupon, che sono quelle che alla scadenza restituiscono 100 di capitale, ma all'inizio costano per esempio soltanto 70, quindi c'è una differenza di 30 fra l'acquisto e la rivendita, e quei 30 che si risparmiano sull'acquisto dell'obbligazione possono essere investiti per esempio in ETF, cioè questi prodotti di investimento, diciamo, che sono nati qualche anno fa, sono dei fondi di investimento ma che sono negoziabili in borsa come delle azioni. Esatto, che costano molto meno. Allora, per esempio, si può prendere un ETF sulla borsa di Wall Street, che continua ad andare molto esattamente, bene. Esattamente, tra l'altro vi siete persi in questi giorni che siete in Italia, questo grande folgore appunto della borsa americana. Esatto. E quindi, insomma, alla scadenza, cioè fra 5 anni, si avrà il 100 di capitale restituito, garantito, pulito, e più quello che avrà reso, e qualcosa avrà reso, oppure comunque non è azzerato il capitale dell'ETF. Fra parentesi, borsa di Wall Street, chi avesse avuto il coraggio di seguire il consiglio di Warren Buffett, famoso guru di Wall Street, nella primavera del 2009, quindi nel momento più orribile della crisi finanziaria americana, quando il Dow Jones, se non mi ricordo male, era a 6.000 punti, adesso è sopra 15.000, ecco, avrebbe guadagnato più del 100%. Ora, nessuno a priori sa se è il momento giusto o il momento sbagliato, per cui, per esempio, un suggerimento importante è sempre quello di entrare a piccoli passi in investimenti a rischio come quello della borsa e non scommettere tutto in un certo momento sperando che poi risalga, si riprenda. Ma ripeto, quello era un momento di crisi importante, però causato molto dall'umore degli investitori, molto dalle paure, dal panico, e quindi che avesse avuto invece fiducia nella forza generale dell'economia americana, che si traduce poi nel Dow Jones, ecco, avrebbe fatto un bel affare. E infatti col senno di poi è chiaro che però insomma capita sempre così, naturalmente, che si vende. Vi occupate anche di finanza comportamentale, diciamo in altri termini, nel vostro libro, nel senso che sai che ci sono le teorie del gregge, quando naturalmente c'è la new economy che fa volare i titoli della tecnologia con il passaparola, tutti vanno ad acquistare quei titoli, poi quando comincia a vendere uno tutti che gli vanno dietro, insomma questi sono fenomeni ricorrenti e parzialmente si legano anche al discorso che stavi facendo poco fa. Certo, quello di cercare di non seguire l'umore del mercato e cercare di imporsi una disciplina, ecco, tu giustamente prima si parlava di disciplina, fare un programma, ecco, noi invitiamo a innanzitutto fare un bilancio della propria situazione e in modo molto razionale fare una programmazione di riduzione dei costi, come dicevo prima, riduzione del costo del conto corrente, e già lì si può risparmiare parecchio, riduzione del costo di certi prodotti che sono carissimi, per esempio fra un fondo comune obbligazionario e comprare direttamente un BTP, conviene mille volte comprare un BTP. Questo è vero, però il fondo magari diversifica su più titoli di Stato e siamo un po' più protetti, no? Però il fondo obbligazionario con i rendimenti che oggi danno i titoli di Stato e con le commissioni che si pagano di gestione è difficile creare un valore aggiunto per i risparmiatori. Mi dai il là anche per commentare il tema della diversificazione, non è sempre possibile farla per tutti, soprattutto per chi naturalmente ha un risparmio modesto, non è che lo può polverizzare in 18 prodotti di investimento solo perché ha la massima diversificazione, anche lì bisogna fare delle scelte oculate. Un'altra, ecco, dal punto di vista della diversificazione e del ridurre le spese al minimo, un consiglio importante che noi diamo, sembra banale, ma la semplicità è un valore. Più una strategia è semplice, più un prodotto finanziario è semplice, meglio è, perché vuol dire che è più trasparente, si capiscono meglio i costi e si può capire anche meglio quale potrà essere il risultato. Stavo intanto leggendo, adesso sentiamo Fabrizio da Treviso, che è un altro ascoltatore, pronto all'800240024. Continuando intanto a leggere invece gli SMS, c'è un ascoltatore che dice: dopo Parmalat, Lehman, Argentina, Cirio e adesso Fonsai, la domanda giusta da fare al promotore è: ma te dove eri a fare i propri conti da solo? Devo dire che in realtà i promotori finanziari italiani, solamente una minuscola percentuale ha suggerito questi prodotti di investimento alla propria clientela. In realtà chi si è affidato al consulente finanziario, al promotore finanziario, ha potuto proteggere i propri risparmi. Poi magari è andata male da altri punti di vista, perché comunque con un mercato che scende su tutti i settori, dall'azionario all'obbligazionario, è difficile trovare un asset appunto che ti accontenti. Però in realtà i prodotti spazzatura i promotori ne hanno collocati ben poco, per cui questo va riconosciuto, l'abbiamo fatto anche altre volte. Allora sentiamo Maria Teresa, cosa ci vuole chiedere Fabrizio dalla provincia di Treviso. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno, vi ringrazio per il tempo che mi dedicate e anche per aver reso un po' più semplice un argomento così ostico a cittadini come me, laici nei confronti dell'economia. Vi porto subito... Perché le è così difficile occuparsi di economia, Fabrizio? Perché dice che è un tema ostico? Sì, trovo che per noi cittadini tra virgolette normali, mi reputo un cittadino medio, quindi sono uno di quelli che si cerca l'assicurazione su internet, la tariffa telefonica e tutto il resto, però effettivamente nei confronti dell'economia, dei prodotti economici e delle dinamiche dell'economia spesso mi trovo spaesato, anche devo dire impaurito, quindi spesso piuttosto di rischiare o investire autonomamente qualcosa preferisco, come diceva qualcuno, non proprio nel materasso ma magari al massimo cercando il conto corrente più un po' più vantaggioso, ecco, ma mi fermo lì. Quindi sicuramente sfrutterei l'opportunità di un consulente indipendente che sicuramente non ne conoscevo la figura. Quindi Insomma, i concetti fondamentali li ha afferrati benissimo Fabrizio, per cui per la verità altro che sprovveduti, insomma, complimenti, ci dica. Comunque poi brevemente volevo solo proporre il mio caso. Mia madre ha appena venduto casa di proprietà e si trova una cifretta da dover capire cosa farne. Siamo andati a informarci presso 3-4 chiese, come si dice qua, abbiamo fatto il giro delle chiese, e una banca popolare con nome non tanto italiano ma più tedesco che italiano ci ha dato tre possibilità. Uno era investire in obbligazioni, uno in azioni della banca e il terzo in un conto corrente con una percentuale mixare tutti e tre. No, cioè la banca le suggerisce intanto di concentrare tutto quello che lei ha ottenuto in una posizione piuttosto che in un'altra, piuttosto che nella terza? No, anzi, piuttosto chiedono suggeriscono di diversificare, però mi propongono questi tre prodotti. Non mi hanno, adesso non conosco l'andamento del mercato, non conosco le prossime emissioni di obbligazioni italiane, quindi BTP, emissioni BTP o BOT, non ho idea. Però no, mi hanno proposto queste tre eventualità, appunto, non mi hanno proposto altro. Quindi era mi tolgo una curiosità: che tipo di chiacchierata hanno fatto con sua mamma? Perché comunque, se lei è sua mamma, non sarà una persona giovanissima, per cui magari certi prodotti di investimento direi che sono da escludere a priori. Hanno cercato di conoscerla con quelle che sono le sue esigenze, che cosa deve fare con questi soldi, che tipo di chiacchierata ha avuto? È rimasto soddisfatto della chiacchierata con i consulenti? Diciamo che hanno cercato di carpire, ma comunque sono stati gentili, naturalmente lo devono essere, però hanno cercato di ottenere informazioni che permettessero a loro di capire cosa proporre, non tanto a noi di avvantaggiarci e di darci gli strumenti per poter poi decidere cosa meglio fare. Nella fattispecie mia madre, che ha venduto una casa di proprietà adesso in affitto, una volta che si è tirato fuori quelle migliaia di euro all'anno che le permette di pagare l'affitto, il resto lei sopravvive con la pensione. Certo, i soldi li avrebbe comunque investiti o comunque li avrebbe bloccati in qualche maniera. Insomma, intanto abbiamo capito da questo pacchetto da investire, lei deve ricavare quantomeno quello che è necessario per pagare l'affitto. Brava, Maria Teresa. Brava. Esatto, no, è un'indicazione fondamentale, Fabrizio. Sì. Senta, se vuole, se ha voglia, ci scriva una mail in privato che magari la aiutiamo in maniera un po' più dettagliata, perché adesso abbiamo due giornalisti, non abbiamo dei consulenti finanziari, no, per cui però delle cose interessanti, però, Fabrizio ce l'ha detto. Siccome ha detto che per esempio per scegliere la polizza assicurativa va online, online si trovano tantissime informazioni, per esempio sui conti sui conti di deposito vincolati, che offrono dei buoni tassi di interesse, e quello è un prodotto garantito, sicuro e con dei tassi anche abbastanza concorrenziali con i però bot. Però magari, ecco, per la mamma ha bisogno di una soluzione che lo rassicuri di più, e forse il rapporto fisico con il consulente in banca rassicura un po' di più questo nucleo familiare, non trovi? Sì, però ha un figlio, mi sembra, piuttosto in gamba, e quindi che non la vuole lasciare, per cui magari un pochino, insomma, conserviamolo anche di risparmio. Glauco Maggi, benvenuto. Grazie. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È l'avvertimento che obbligatoriamente appare su tutti i documenti e le pubblicità che riguardano fondi comuni, ETF e qualsiasi altro prodotto finanziario. Ma per collocare un fondo, un ETF o qualsiasi altro prodotto per investire in borsa, è inevitabile che il venditore, bancario o consulente, parli dei risultati passati e suggerisca scenari di performance future. State bene attenti a come lo fa, quali periodi storici prende in considerazione e quali parametri di riferimento, con quanta sicurezza elabora previsioni e con quanta cautela spiega i rischi. È un trucco facile enfatizzare le annate buone dimenticando le cattive, oppure vantarsi di essere i primi in una categoria di prodotti così specializzata da avere pochi concorrenti. Eccoci di nuovo ritrovati in diretta e abbiamo riproposto una terza parte del libro che presentiamo questa mattina, Guadagnare con la crisi, 10 consigli per salvare i nostri risparmi. Adesso facciamo riposare per qualche minuto Maria Teresa Cometto, visto che Glauco Maggi ci ha raggiunto finalmente, e gli facciamo terminare appunto questa interrogazione. Per la verità stiamo commentando anche molte osservazioni che stanno facendo i nostri ascoltatori, ai quali abbiamo chiesto e abbiamo fatto la domanda che voi fate nel vostro libro: che cosa fate con i vostri soldi e per i vostri soldi, perché i concetti non sono gli stessi. E soprattutto abbiamo chiesto loro quali sono i concetti economici con i quali hanno meno confidenza, perché non dobbiamo guardare appunto alla finanza, all'economia con pregiudizio. Glauco, no? Questo è un concetto ricorrente nel vostro libro. Sì, assolutamente. Il primo consiglio che va dato è smitizzare l'alibi, smontare l'alibi della finanza inaccessibile. La finanza, oltre che essere accessibile almeno ai livelli anche popolari di investimenti sicuri e possibili, oltre a essere quello, è anche, diciamo, un fondamento della nostra economia e ci aiuta anche a capire altre crisi, altre situazioni della nostra vita che in cui tra l'altro in questo periodo siamo molto sprofondati, ed è l'approccio secondo me mentale che va cambiato. Da noi scrivono al nostro giornale molti dicendo: io, l'abbiamo ricordato prima, tu tieni sulla stampa, sì, appunto, la rubrica apposta direttore. Io non capisco niente di finanza, ma comunque allora ho preso quel tal prodotto, ecco che proprio siamo proprio all'opposto di quello che va fatto. Bisogna dire che la finanza può essere almeno nei primi gradini un insieme di prodotti accessibili, ci sono, e quindi può essere affrontata con una certa fiducia con i consulenti di banca, promotori, o meglio diciamo noi nel libro, forse è stato già detto, quelli finanziari indipendenti, che hanno o dovrebbero avere un minor conflitto di interesse. Partiamo dall'idea che è vero che è bello avere il consulente, ci sgrava magari, però teniamo conto che la persona che ha il minor conflitto di interesse per curare i nostri interessi siamo noi stessi. Quindi partiamo da noi, partiamo da quello che riusciamo a imparare anche leggendo i giornali, anche leggendo i libri, perché alcuni concetti di base, per esempio il funzionamento dei titoli di Stato o delle obbligazioni rispetto a quelli degli indici azionari o dei fondi gestiti, sono concetti che si possono capire se si vuole e se si ha un approccio positivo. Certo, adesso vi voglio fare anche una piccola provocazione, e tra l'altro credo già che come dire, mi voglia dare un po' di sponda anche un ascoltatore, Michele da Milano. Anzi, prima sentiamo Michele, poi dopo vi provoco un po' io sul tema del concetto dell'investimento sicuro, il free risk, che per la verità adesso non esiste più, e vediamo un po' qua cosa possiamo fare per gestire bene allora questi prodotti di investimento, quelli che riteniamo totalmente sicuri. Michele da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi ricevuto e grazie, complimenti per la trasmissione. Io ho telefonato prima quando la signora era intervenuta dicendo che per esempio tra comprare un fondo obbligazionario o un BTP è meglio comprare un BTP perché abbiamo gli stessi rendimenti. Poi ho ascoltato l'intervento del signore, ma devo dire questo: io non sono completamente d'accordo, perché innanzitutto oggi il rischio nel BTP c'è soprattutto di un aumento dei tassi di interesse, quindi una diminuzione del valore del capitale in maniera molto forte. Sposo il concetto che diceva lei della diversificazione, che è fondamentale, ma soprattutto credo che l'investimento debba partire prima dall'analisi dell'esigenza personale del cliente. E poi un libro è molto bello per avere cultura, ma il fai da te può fare molto male. No, ma lo abbiamo ribadito che non è il fai da te, è però se uno dice io di economia non ci capisco niente, non va neanche in banca a negoziare sul costo del conto corrente, è lì che ci focalizziamo noi, non per... No, nel momento in cui si dice una cosa così, è una cosa che può essere corretta, ma può anche non essere vera. Cioè in questo momento forse la diversificazione, come diceva giustamente lei, è l'arma più sicura per tutelare i risparmi. Il libro può fare conoscenza, però poi bisogna usare tutto con molta cautela, perché è anche facile farsi del male. Guardi, Michele, noi condividiamo le sue osservazioni. Il tema è che io non vado dal meccanico e lo esaspero chiedendogli tutti i dettagli, facendo quella che sa tutto del motore, perché non lo so, e quindi arrivo a un certo punto in cui lascio fare lui necessariamente, però posso fare la manutenzione ordinaria della mia auto. Glauco Maggi, metto l'olio, controllo la pressione delle gomme. Posso cominciare a decidere di comprare una macchina che consuma un litro per fare 30 chilometri. Ed è il concetto del risparmiare sui costi che noi enfatizziamo, perché mentre c'è sempre l'alea del rendimento, la certezza nei costi è invece alla nostra disposizione, cioè noi possiamo sapere che cosa costano i prodotti. E quei prodotti che possono essere suggeriti dalle banche, che sono quei misteriosi prodotti complessi, quelli che hanno così aiutato a diffondere la cultura del non capisco niente di finanza, ecco, quelli hanno per esempio dei costi impliciti che non vengono proprio nemmeno illustrati e devono mettere molto in allarme. Vorrei tornare brevissimamente sul discorso del BTP o dei fondi di Bravo, investimento, perché ti ci avrei portato io, perché in realtà è stato mal interpretato, diciamo, il concetto che ha espresso Maria Teresa. Soprattutto c'è il concetto che, mentre è assolutamente vero che il BTP in periodi come può aumentare di valore, può perderlo, e quando siamo in situazioni di tassi come questa attuale, può benissimo perdere di valore, beh, il fondo obbligazionario in BTP corrispondente non è che possa invece Esatto, proteggerci. scampare o Anzi, lì proteggerci, magari quindi costa un po' di più che magari rispetto, ecco, è quella il punto è la differenza. proprio quello lì. Benissimo. E infatti, ecco qua Sergio che ci scrive, stavo ascoltando la vostra trasmissione, facevo la riflessione, a parte il tema del consulente indipendente che abbiamo già affrontato, adesso lo lasciamo. I titoli di Stato, siamo sicuri che sono sicuri. Il conto di deposito è sicuro. C'è anche un bel capitolo dedicato a questo, al conto di deposito che è stato il prodotto, non è di investimento, ma di parcheggio per un lungo periodo negli ultimi anni, appunto, che è stato prescelto da molte famiglie italiane, perché comunque i soldi sono tutti lì, ben visibili, e non vanno sulle montagne russe come vanno le azioni e negli ultimi anni anche i titoli di Stato. Che dici, Maria Teresa? Certo, beh, tornando ai titoli di Stato, dipende molto anche dalla durata dell'investimento. Questo appunto fa parte del imparare l'ABC della finanza. Un BTP a 3 anni è diverso da un BTP trentennale. Il BTP trentennale è pericoloso quasi come un'azione, mentre il BTP a 3 anni ha un livello di rischio molto inferiore, perché chiaramente la scadenza è così breve. I conti di deposito sono stati un'alternativa interessante ai bot agli impieghi di liquidità a brevissimo termine, e sono uno strumento poi garantito dal fondo di garanzia, appunto, Esatto, bancario, e quindi ma anche sono questa. state anche una bella operazione delle banche che, in un momento in cui non facevano raccolte in nessun modo, chiaramente hanno Certo. cercato di attirare in ogni modo la clientela anche attraverso rendimenti interessanti. Però, appunto, siccome c'è questa garanzia del fondo interbancario e il tasso effettivamente è chiaro e il prodotto è molto semplice, e in più anche c'è stata una buona concorrenza. Questo è stato uno dei pochi terreni, diciamo, su cui le banche si sono fatte concorrenza, e Certo. andando a vedere online e non solo online, i risparmiatori possono trovare delle buone occasioni. Ci manca 1 minuto e mezzo prima di chiudere, lo concedo a Glauco Maggi. Gli italiani, come tu sai, Glauco, sono molto affezionati alla casa, all'investimento nel mattone, e insomma, come analizzate questo tema nel vostro libro? Voi che a New York avete vissuto non sulla vostra pelle, ma l'avete osservato direttamente, appunto, il tracollo dei mutui subprime, che ancora lo stiamo pagando anche con la crisi che è arrivata di qua. Sì, ecco, diciamo che la casa è sempre stata forse sopravvalutata nelle aspettative degli italiani, ma rimane un qualcosa, un asset, una parte del patrimonio che deve essere considerata. Assolutamente, per la prima casa noi siamo dell'idea che una famiglia o un lavoratore che riesce ad accumulare e a farsi una proprietà, sapendo di potersela permettere e pagare, deve farlo, così come diciamo di aderire a un fondo pensione complementare se sta lavorando. Questi sono dei cardini che diciamo nella piramide della sicurezza finanziaria. Poi, sul merito dell'investimento immobiliare, ecco, oggi verrebbe da dire che con i prezzi stracciati, se uno ha un'intenzione, si muova e lo Esatto, faccia è il momento giusto. e Come compri Warren bene. Buffett, Tassi comprare bassi. sulla E compri bene. debolezza, Ciao. tassi bassi e prezzi che scendono. Grazie a Maria Teresa Cometto, Glauco Maggi. Il libro Guadagnare con la crisi, 10 consigli per salvare i nostri risparmi. Portatevi questo in spiaggia insieme anche ad un bel romanzo, però anche questo forse è un po' più utile. Grazie a tutti, noi torniamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.